Perfetta Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. پدرم افتخارش این خانواده های سربازان آمریکایی در غرب آسیا که شاهد ذلت آمریکا در نبرد های سوریه، عراق و لبنان و افغانستان و یمن و فلسطین بودن در انتظاره. Anche se quasi nessuno di voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, aveva compreso una sola parola di questa lingua che è iraniana, va detto che i toni sono eloquenti. Si tratta infatti della figlia del generale iraniano Soleimani, sapete, ormai ucciso venerdì in Iraq da un blitz delle forze speciali americane, che annuncia tempi decisamente bui per gli Stati Uniti. Perché purtroppo la parola chiave di questo inizio d'anno, purtroppo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo con voi Roberta Giordano, dal giorno della Befana si riparte con Effetto Notte anche nel 2020, naturalmente, inevitabilmente. Dicevo, la parola chiave è purtroppo escalation, come si potrebbe tradurre in italiano, un progressivo aggravamento, un progressivo acuirsi della tensione, intanto a livello geopolitico internazionale, ma in particolare tra Iran e Stati Uniti, e Iraq, che è in mezzo naturalmente ai due, come tra l'incudine e il martello, e poi la situazione, il caos libico, quindi l'escalation della tensione in Libia, l'escalation degli incendi in Australia, e poi anche, per quanto riguarda casa nostra per certi versi, l'escalation, il caso di riusare questo termine, purtroppo delle aggressioni nei confronti dei medici, di cui parleremo proprio col presidente della Federazione degli Ordini Nazionale degli Ordini dei Medici. Tante cose di cui parlarvi, mi sembra, dalle poche cose che vi ho anticipato, non ci sia nulla di buono, ma insomma qualcosa di buono ci sarà sempre, mentre vi racconto i fatti principali qui a Effetto Notte a fine giornata, come sempre. Ne parleremo con gli ospiti per approfondire vari argomenti. Per i vostri messaggi, per la vostra interazione con Effetto Notte, lo sapete, sono sempre due i canali privilegiati. Uno è il 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp, per le vostre riflessioni, le vostre dichiarazioni, commenti, eccetera. Oppure pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte. Poi il Twitter Roby con la Y, lineetta bassa, Giordano. Ma direi, prima di tutto, come di consueto, ormai lo sapete da tempo, partiamo con la sintesi della giornata. Altissima tensione Iran-Stati Uniti, milioni di persone oggi in piazza a Teheran ai funerali del generale Soleimani, ucciso da un blitz americano. Neanche la morte di Trump potrà vendicarlo, tuonano i vertici iraniani. Caos Libia, le truppe del generale Haftar strappano Sirte alle milizie del premier al-Sarraj, Conte e Merkel premono per una soluzione politica. Ancora sangue sulle strade, due donne muoiono investite da un ubriaco e diventano sette le vittime nella strage in Alto Adige. Le aggressioni ai medici a Napoli, l'ordine dei medici per l'appunto chiede la presenza di forze dell'ordine nel pronto soccorso e la ministra Lamorgese ordina telecamere sulle ambulanze. Calcio, giornata di Serie A con i trionfi di Juventus e Atalanta, mentre al Milan non basta Ibra. E partiamo quindi dalla fortissima e preoccupante tensione tra Iran e Stati Uniti e in tutta l'area medio orientale dopo l'uccisione in un attacco americano del potente generale iraniano Soleimani, del quale oggi sono stati i funerali a Teheran, funerali che hanno richiamato milioni di persone secondo i media iraniani. Forti le minacce all'America da parte dell'Iran, che annuncia un nuovo Vietnam se le truppe americane non lasceranno l'area, mentre Europa, ONU e NATO chiedono di fermare l'escalation per l'appunto e premono per una mediazione politica. Ne parleremo tra pochissimo, anche citando tra l'altro un'affermazione particolarmente emblematica del segretario generale della NATO Stoltenberg. E passiamo all'altra crisi preoccupante di queste ore, naturalmente di anni, degli ultimi mesi in particolare, ma in questi giorni a sua volta è più acuita. Avanzano infatti le milizie del generale Haftar. Sale la tensione in Libia. Secondo l'emittente Al-Arabiya, le forze di Khalifa Haftar sarebbero riuscite a conquistare Sirte, fino a questo momento controllata dalle truppe di Tripoli e che rappresenta un importante centro di estrazione del petrolio. Il generale della Cirenaica non ferma la sua offensiva e stamattina, dopo un fine settimana di sangue nella capitale a causa dei due attacchi, sono arrivati i primi soldati turchi. Il presidente di Ankara, Recep Tayyip Erdogan, ha assicurato che non combatteranno, ma garantiranno il cessate il fuoco e coordineranno le operazioni. La situazione si complica con il passare delle ore. Oggi è prevista una riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza dell'ONU convocata dalla Russia. L'alto rappresentante per la politica estera europea, Joseph Borrell, ha fatto appello perché si agisca compatti sotto la guida dell'ONU e si trovi una soluzione politica al conflitto. Marta Ottaviani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche l'Italia si muove a livello diplomatico per evitare l'acuirsi della tensione. Invita a non ripetere gli errori del passato il ministro degli esteri Di Maio, intervenendo sulla situazione in Medio Oriente e in Libia. Guerra e violenze ci espongono a ritorsioni, ricorda il responsabile della Farnesina, secondo il quale l'unica via da seguire è quella del dialogo e della diplomazia. Nel pomeriggio il premier Conte ha avuto un colloquio telefonico con la cancelliera tedesca Merkel. Sia sulla Libia sia sull'Iraq i due hanno concordato sulla necessità di agire con uno stretto raccordo a livello europeo. Le crisi internazionali fanno passare in secondo piano i molti nodi ancora da sciogliere nella maggioranza di governo. Il vertice sulla prescrizione in programma domani è stato rinviato a giovedì. Il confronto resta aperto anche su legge elettorale, concessioni autostradali e caso Gregoretti. Anche l'annunciata verifica di governo potrebbe slittare a dopo le elezioni regionali. Le opposizioni intanto incalzano l'esecutivo, accusandolo di aver isolato e fatto scomparire l'Italia dalla scena internazionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a metà seduta gli indici su Wall Street hanno ridotto le perdite, il Nasdaq ha girato in positivo, i listini provano a scrollarsi di dosso i timori per un'impennata delle tensioni in Medio Oriente, il petrolio ha ceduto molto dei suoi precedenti guadagni e ora è sui $63.20 al barile, il prezzo dell'oro ha chiuso Londra ai massimi da aprile 2013 a $1.573.1 l'oncia, sui massimi anche il palladio. E poi per tornare invece su questioni italiane, a parte anche la politica italiana di cui abbiamo appena parlato, le ripetute aggressioni ai medici a fronte dell'escalation, vedete la parola chiave purtroppo di questo inizio anno, di aggressioni e violenze a danno del personale sanitario, soprattutto a Napoli, l'Ordine dei Medici chiede la presenza delle forze dell'ordine nel pronto soccorso e vigilantes sulle ambulanze. In serata la ministra dell'Interno, Lamorgese, ha annunciato che ci saranno presto, a metà gennaio, delle telecamere proprio sulle ambulanze. Comunque ne parleremo nel corso di questa puntata direttamente con il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici. Di nuovo all'estero adesso con la prima udienza per aggressioni sessuali e stupro contro l'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein, che è cominciata questa udienza in un'aula del tribunale a Manhattan. Fino a 2 anni fa, uno degli uomini più potenti di Hollywood, Weinstein è entrato nella sede della New York Supreme Court usando un deambulatore. L'udienza di oggi è procedurale, servirà a selezionare la giuria incaricata di decidere se l'ex produttore ha stuprato e aggredito sessualmente due delle oltre 80 donne che lo accusano di violenze. Ma nel frattempo la magistratura di Los Angeles ha spiccato un nuovo capo di accusa per crimini sessuali contro di lui. E poi in Gran Bretagna un uomo di 36 anni, Reinhard Sinaga, ex studente di origine indonesiana, è stato condannato al suo terzo ergastolo oggi a Manchester perché è riconosciuto colpevole di aver attirato nel suo appartamento e violentato 48 uomini. L'uomo è stato già giudicato per altri episodi, la polizia ritiene che il totale delle vittime sia di quasi 200. Si tratterebbe del maggior numero di vittime di stupro da parte di una sola persona nella storia legale britannica. Li adescava fuori dai locali notturni di Manchester, li attirava nel suo appartamento strategicamente locato tra due poli universitari nel centro vibrante della città e dopo averli drogati abusava di loro sessualmente. Un ex studente di dottorato di 36 anni è stato riconosciuto colpevole di aver violentato così 48 ragazzi. L'uomo, originario dell'Indonesia, secondo la polizia britannica, nell'arco di 10 anni avrebbe abusato però di almeno 195 giovani e sarebbe lo stupratore seriale più prolifico della storia giudiziaria britannica. Reinhard Sinaga, condannato oggi al terzo ergastolo, avrebbe commesso 159 reati, incluso 136 stupri, che filmava su due diversi cellulari. Un individuo pericoloso, disturbato e perverso, lo ha definito il giudice di Manchester, che dopo essere stato arrestato nel 2017 dovrà ora scontare un minimo di 30 anni di prigione, mentre sono oltre 70 le vittime che ancora devono essere identificate. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Torniamo sulle notizie italiane. La cronaca: Senigallia, in provincia di Ancona, nella notte due donne sono state investite e uccise su una strada provinciale all'uscita da una discoteca, una strada che i residenti definiscono strada della morte perché già altre volte si sono registrati degli incidenti. L'uomo che le ha investite, un autotrasportatore di 47 anni della zona, è risultato avere un tasso alcolico 4 volte superiore al limite di legge. Così come l'uomo che ha investito il gruppo di giovani turisti tedeschi a Lutago, in Alto Adige, uomo che ora dice che vorrebbe essere al posto delle vittime vittime. Nel frattempo, vittime che sono diventate 7, perché anche una ragazza di 21 anni che era gravemente ferita è morta oggi dopo essere appunto rimasta ricoverata in ospedale, gravemente ferita. Ed è in carcere l'uomo che a Imola ha investito e ucciso un giovane colpevole, a suo dire, di aver rubato il cellulare al figlio. È stato arrestato con un'accusa pesantissima, omicidio volontario aggravato. L'operaio che ieri ha investito e ucciso a Imola con il suo fuoristrada un giovane marocchino regolare nel nostro paese. L'operaio, italiano residente a Imola di 43 anni, ha detto che non voleva uccidere il 24enne, solo fermarlo e affrontarlo faccia a faccia. I trascorsi tra i due, la strada stretta e senza marciapiedi dove è avvenuto l'incidente e le testimonianze di chi afferma di aver visto quell'auto aggirarsi a lungo in zona in attesa di qualcuno, hanno però portato gli inquirenti a ritenere volontario l'investimento e a decidere per l'arresto. L'operaio era già stato denunciato per lesioni qualche giorno fa dopo una rissa sempre con il giovane marocchino che lui riteneva colpevole di avere minacciato e derubato nel cellulare suo figlio. Sempre l'operaio racconta che il 24enne morto nell'investimento era poi tornato a minacciare il figlio e da qui la seconda spedizione punitiva finita purtroppo in tragedia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alleggeriamo un po' con il cinema, i Golden Globes, cioè alle anteprime praticamente degli Oscar per il cinema, vince La Prima Guerra Mondiale di Mendes. Un colpo di scena infatti è una vittoria annunciata, il suo film 1917 di Sam Mendes e C'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino hanno trionfato ai Golden Globes 2019 rispettivamente per il miglior film drammatico e per la miglior commedia cinematografica. Ridimensionati invece Netflix e gli altri big dell'intrattenimento in streaming, bocciato Scorsese, spazio alla politica con Michelle Williams incinta che ha fatto appello per la difesa dei diritti di scelta delle donne in fatto di aborto invitando le americane a votare per i loro interessi. Non so invece con Dario Ricci se si parla di cinema in campo. Beh no, però dai Golden Globes passiamo ai Golden Goal magari. Appunto, così già ha fatto cinema mi pare Ronaldo, no? Beh Ronaldo se lo vorrà fare cinema, ha detto per il mio dopo carriera. Già penso physique du rôle ce l'ha, già c'è un fumetto ufficiale su di lui, quindi insomma non mancherà un film e chissà se. Di solito gli sportivi al cinema pochi se ne sono trovati bravi e uno su tutti, il grande calciatore ex Manchester, Eric Cantona, no? Certo. Però ricordiamo anche che ha fatto una specie, no non era un cameo, era proprio una parte. Sì, ha fatto, lui ha partecipato a più di 40 film, Cantona. Più di 40 quindi film, è... me ne ricordo uno in particolare. Pensavo. Invece ci sono anche delle prove abbastanza inquietanti come un tentativo di in Alex l'Ariete di Alberto Tomba, insomma. Ah, è vero, sì. Ce lo siamo dimenticato. Diciamo, con buona pace della critica. Però parliamo di quello che succede in campo, perché c'è in scena il big match che chiude questa 18ª di Serie A. Al San Paolo l'Inter è in vantaggio sul Napoli per 1-0 quando siamo al 28esimo. Inter in vantaggio grazie alla rete di Lukaku, al 13esimo gol in campionato. Al 14esimo c'è stato un contropiede favorito da un clamoroso errore di Di Lorenzo che è scivolato lanciando di fatto, lasciando via libera a Lukaku verso la porta dei partenopei, poi di sinistro l'attaccante belga ha battuto Meretto. Un Napoli che al primo minuto ha avuto una buona occasione con Milik in una giornata che ha visto intensa di Serie A, direi proprio di sì, perché ci sono state le goleade della Juventus 4-0 appunto al Cagliari con la tripletta di Ronaldo, un gol sul rigore, l'assolo di Higuain, prima tripletta di Ronaldo da quando è in Italia, e addirittura il 5-0 dell'Atalanta che ha fatto al Parma quello che aveva fatto al Milan prima della sosta. A proposito di Milan, c'è stato anche il grande esordio di Zlatan Ibrahimovic, che non è bastato, però Ibrahimovic ha giocato... Ha fatto qualche gol, perché è finito 0-0 con la Sampdoria, sì. Ha fatto qualche bel tocco, però chiaramente era pure parecchio che non giocava, eppure così... Di ruggine. Sì, è stato comunque un po' il migliore, questa la spiega, parecchio su come butta il Milan di questi tempi. Poi, vittoria dell'Udinese a Lecce per 1-0 nella gara delle 12 invece delle 12:30, 1-1 tra Bologna e Fiorentina. Grazie caro Dario, ti do anche questa notizia che sicuramente ti interessa. Allora, Sanremo, Tosca e Rita Pavone saranno in gara al festival. Ma questa, ragazzi, io saluto tutti, chiudo qui, vado a risentire la completa veramente... di discografia, da adesso in poi musica classica, Tosca e Rita Pavone, straordinario. Grazie Dario Ricci, grazie Dario, poi con te torneremo a parlare di musica, non di musica, di calcio naturalmente dopo, vediamo come prosegue questa partita. Ringrazio intanto tutte le ascoltatrici e ascoltatori che mi danno bentornata dopo queste brevi vacanze natalizie e poi vedevo un'altra notizia, vediamo se la ritrovo, ve la do dopo magari, a tra poco. Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Avete visto, in un battito di ciglia siamo di nuovo insieme, Roberta Giordano, dopo questa breve pausa natalizia. Oggi, giorno della Befana, siamo di nuovo insieme, tante le cose da raccontare. Infatti, fra i vari ascoltatrici e ascoltatori che mi danno grazie e benvenuto, c'è Isa che dice: bentornata Roberta, gran lavoro ti aspetta oggi. Oggi e naturalmente per i prossimi giorni. Oggi perché, come vi dicevo, insomma, il ritorno, l'inizio di questo nuovo anno non è, diciamo, all'insegna dei migliori auspici, almeno per quanto riguarda le tensioni geopolitiche, le crisi internazionali, di cui parleremo tra pochissimo. Per i vostri messaggi, vi ricordo, pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Vi ricordo, prima di cominciare con gli ospiti, i vari argomenti da approfondire, quali sono le notizie principali di questa giornata. Per l'appunto, altissima tensione tra Iran e Stati Uniti, ne parleremo a breve, così come anche del caos Libia. E poi ancora sangue sulle strade, due donne muoiono investite da un ubriaco a Senigallia e intanto diventano 7 le vittime nella strage in Alto Adige. Le aggressioni ai medici, a Napoli l'ordine dei medici chiede la presenza di forze dell'ordine nel pronto soccorso e la ministra Lamorgese ordina telecamere sulle ambulanze. Anche di questo ci occuperemo. Del calcio avete sentito adesso gli aggiornamenti di questa intensa giornata di Serie A. Poi una brutta notizia che è arrivata poco fa, di una ragazza che è affetta da meningite, una ragazza di 16 anni è morta a Reggio Calabria. A darne notizia la direzione aziendale del grande ospedale metropolitano, secondo cui il decesso si è verificato per sepsi meningococcica microbiologicamente accertata, malattia di elevatissima mortalità anche se opportunamente e tempestivamente trattata. Poi sapete che c'è, diciamo, un po' di allarme e allarmismo per quanto riguarda la zona del lago di Iseo, però chiedono appunto i sanitari di non avere paura, di non essere allarmanti, allarmistici. Adesso stanno provvedendo per la profilassi. Come diceva, per l'appunto, come dicevamo, cominciamo da una delle due crisi internazionali più preoccupanti in questi giorni, quella scoppiata dopo l'uccisione a Baghdad, in Iraq, del potente generale iraniano da parte del blitz delle forze americane, il potente generale iraniano Soleimani. Al suo funerale oggi a Teheran in piazza c'erano, i media iraniani parlano addirittura di milioni di persone. L'Iran quindi vuole vendetta per questo che definiscono un assassinio, ma l'ha definito anche la NATO così. L'Iran vuole vendetta, si moltiplicano quindi le minacce nei confronti degli Stati Uniti. Se non ritirano le forze dalla regione, dicono i vertici iraniani, per gli Stati Uniti inizierà un nuovo Vietnam, quindi potete immaginare che minaccia. Neanche la morte di Trump, aggiungono, può vendicare Soleimani. La figlia del generale annuncia tempi bui per l'America. Sentiamo anche questo audio della figlia del generale Soleimani che minaccia l'America. پدرم افتخارش این خانواده های سربازان آمریکایی در غرب آسیا که شاهد ذلت آمریکا. Intanto il presidente Trump risponde al Parlamento iracheno che ieri ha votato per cacciare le truppe americane dall'Iraq. Se ci mandano via, però, minaccia a sua volta Trump, ci saranno sanzioni enormi, e ribadisce la minaccia di colpire i siti culturali iraniani. Il presidente del Consiglio italiano Conte invoca un intervento europeo per evitare, per l'appunto, l'escalation, visto che dicevamo che la parola chiave di questo inizio d'anno è purtroppo escalation, e assicura che l'Italia farà il possibile per proteggere i militari italiani impegnati nella regione, mentre i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna chiedono all'Iran di tornare ad applicare l'accordo sul nucleare del 2015, quello che dopo anni, sforzi, fatiche, eccetera, Obama, l'ex presidente americano, era riuscito a stringere con l'Iran. Allora, intanto voglio subito coinvolgere direttamente dall'Iraq Barbara Schiavù, che è giornalista di guerra, direttrice di www.radiobullets.com, inviata attualmente a Baghdad. Buonasera Barbara. Buonasera a voi da Baghdad. Barbara, intanto per chi appunto non è molto avvezzo a questi temi, ma insomma comunque sono molto complessi, ci spieghi che cosa c'entra l'Iraq in breve, che cosa c'entra in questa tensione tra Iran e Stati Uniti? L'Iraq è il terreno di battaglia tra Iran e Stati Uniti, è il punto dove forse più debole in questo momento del Medio Oriente, perché c'è una grande divisione interna, un paese che è già diviso sia per religione che per etnie, ci sono curdi, sunniti, sciiti, e oggi anche gli sciiti sono divisi all'interno, che sono la maggior parte della popolazione, tra chi sostiene le milizie filo-iraniane, che poi fanno un po' il buono e cattivo tempo in Iraq, e chi invece è completamente contrario a un governo, un parlamento religioso, un parlamento che segue l'Iran, e questi sono rappresentati dai ragazzi delle proteste che da 3 mesi paralizzano il governo. Infatti la risoluzione che poi è stata votata ieri dal Parlamento, che non è vincolante, dal Parlamento che dovrà in realtà una bozza, sì. Esatto, che è una bozza per mandare via gli americani, in realtà dovrà essere approvata l'11 da tutto il Parlamento, perché mancavano sciiti e sunniti che non si curdi e sunniti che non si sono proprio presentati, perché a loro non interessa entrare in questa bagarre. Però di fatto, anche se venisse votata, dovrebbe essere, per diventare legge, dovrebbe essere richiesta dal governo e approvata poi dal premier, un premier che oggi è dimissionante. Perché sta solo di fatto lavorando. Barbara, tra l'altro io vedevo che Ahmad Assadi, cioè il deputato sciita iracheno promotore di questo provvedimento appunto varato dal Parlamento di cui parlavi, dichiara: via le truppe americane dall'Iraq, ma i soldati italiani vogliamo che restino perché addestrano i nostri. Ma anch'io, parlando ieri col consigliere del presidente, il consigliere giuridico, ha detto che quello che probabilmente avverrà è che ci saranno delle modifiche all'accordo sulla presenza straniera, che è stato fatto nel 2011 tra gli americani e gli iracheni, dove verranno limitate delle cose per gli americani, tipo lo spazio aereo e gli interventi e le operazioni militari sul territorio, perché l'hanno vissuta qui in Iraq il Parlamento come una violazione della propria sovranità. Fare un attacco di questo tipo in un aeroporto senza neanche avvisare gli iracheni, insomma, l'hanno visto un po' come una prepotenza molto forte, senza contare chi hanno colpito. Quindi un segnale dovevano comunque darlo. Il compromesso a cui probabilmente raggiungeranno è quello di cambiare qualche regola di questo accordo. Nessuno, di fatto c'è ancora bisogno della presenza internazionale per quanto riguarda l'ISIS, che non è stato del tutto sconfitto, anche se legalmente in realtà lo è, e gli italiani tra l'altro addestrano, fanno parte di tutto quel gruppo di soldati che addestra, i carabinieri in 4 anni hanno addestrato più di 30.000 agenti iracheni, quindi è un lavoro che è ancora da fare, necessario. Barbara, ti volevo ancora chiedere, quindi tu dicevi, ci hai fatto capire che il sentimento iracheno degli iracheni è abbastanza conflittuale, sono spaccati appunto tra i sostenitori dell'Iran e quelli invece che vorrebbero liberarsi di questa teocrazia così, così rigida, no? Dimmi, prego. Sì. La situazione è proprio questa, di una sorta di confusione. È molto, secondo me, nuovo questo rapporto che c'è con i ragazzi di Piazza Tahrir, che poi non sono solo ragazzi perché c'è tutte le varie fasce della popolazione, sono soprattutto intellettuali, studenti, giovani. La cosa che è drammatica è che loro temono di essere parte della vendetta delle milizie, perché le milizie li ritengono filoamericani, in realtà loro chiedono pescano tutti quanti, però in 3 mesi ci sono stati 500 morti. L'ultimo due... Sì. No, scusami Barbara, per chiudere, in sintesi, se tu dovessi dire la situazione attuale, generale, adesso in Iraq, sappiamo ha subito 2 guerre, poi dalla famosa invasione degli Stati Uniti a ruota anche gli altri per far fuori Saddam Hussein, le famose armi di distruzione di massa, eccetera, eccetera, a che punto è adesso l'Iraq dopo anni? Io penso che l'Iraq si senta completamente esausto, soprattutto parlo dei civili e della gente che ormai è veramente, ha sopportato di tutto da una parte e dall'altra, perché l'ultima cosa che li ha sconvolti è l'ISIS, che ha fatto sì che intere città venissero distrutte, ci sono i profughi, ci sono sfollati, c'è la mancanza di lavoro. Una popolazione che è molto giovane, perché oltre il 50% degli iracheni è sotto i 30 anni, quindi non sta meglio di quanto stava prima, e la situazione con due potenze internazionali che gli soffiano sul collo sicuramente non aiuta. Chiaro. Grazie Barbara Schiavulli dall'Iraq, grazie mille per questo intervento. Mi raccomando, grazie, attenzione. Voi. Ciao Barbara. Ciao. Buona serata. Ora invece capiamo dalla parte degli Stati Uniti, raggiungendo proprio in America il nostro Marco Valsania. Ciao Marco. Salve, ciao, buonasera. Marco, allora intanto l'Unione Europea, i ministri dell'Unione Europea si riuniranno, vedevo, venerdì prossimo a Bruxelles in un vertice straordinario per discutere appunto di questa crisi in Iran e Iraq. L'ONU, per quanto riguarda l'ONU, c'è l'appello del segretario generale Guterres che dice: sono in costante contatto con i leader mondiali e il mio messaggio è semplice e chiaro, fermare l'escalation, per l'appunto questo termine che ricorre. Dice: bisogna esercitare la massima moderazione, far ripartire il dialogo, rinnovare la cooperazione internazionale. Dice: le tensioni geopolitiche che sono i massimi livelli di questo secolo e le agitazioni stanno aumentando, anche la non proliferazione nucleare non può essere data per scontata. Per quanto riguarda la NATO, il segretario generale Stoltenberg, al termine della riunione straordinaria che c'è stata oggi degli ambasciatori dei 29 paesi dell'Alleanza Atlantica, per l'appunto la NATO, ha detto: l'Iran non deve mai acquisire le armi nucleari, così anche come ha sottolineato Trump, Teheran eviti ulteriori violenze e provocazioni. Ma ha detto anche un'altra cosa però Stoltenberg, piuttosto emblematica: la decisione di assassinare il generale iraniano Soleimani è stata una decisione americana e non della NATO. Quindi ha preso un po' le distanze Trump, secondo te sembra un po' isolato in questo momento, in questa decisione, in questa uccisione che ha deciso, questo blitz che ovviamente ha buttato benzina sul fuoco? Ma sì, sicuramente ha aperto il proverbiale così, vaso di Pandora nel Medio Oriente e anche nella politica internazionale e tra gli alleati. La sensazione anche che sia negli Stati Uniti, anche diciamo tra gli esperti americani, membri, ex membri di amministrazione, ci sia molta molta confusione e molta incertezza tra diciamo così a tutti i livelli, anche tra gli alleati diciamo americani, quindi anche all'interno della NATO, su quali siano le intenzioni, i progetti, le strategie, la strategia degli Stati Uniti. L'incertezza che probabilmente c'è anche negli ambienti diciamo politici americani, ed è il vero nodo del dramma diciamo di questi giorni. Non è chiaro quale sia diciamo così il senso nel medio e nel lungo periodo dell'operazione militare che ha lanciato Trump, dell'escalation che ha comunque innescato, che la si voglia giudicare diciamo così formalmente legittima o giustificata come dicono i suoi fautori, come dicono i repubblicani che lo difendono, oppure che la si giudichi illegittima. Ma il problema è che cosa a questo punto ha in mente l'amministrazione Trump, e non è chiaro se abbia qualche cosa in mente. Temono alcuni anche diciamo così veterani osservatori della politica estera americana, e questo è il vero dramma, cioè se adesso l'Iran risponde, qual è la successiva risposta americana, un'ulteriore cosa puoi fare, davvero bombardare 52 diciamo 52 località compresi tesori culturali, che sarebbe anche in violazione delle norme delle leggi internazionali, quindi comunque generare un'escalation che a questo punto può degenerare senza fine. Marco, scusa un attimo, ma secondo te può essere che sia stato diciamo, visto che si entra nell'anno in cui c'è il rush finale per le elezioni presidenziali, no? Novembre 2020, sia stata una prova di forza di Trump che pensa possa essere un fiore all'occhiello questa cosa nella sua campagna? O... Beh, sicuramente una delle accuse mosse dai critici, soprattutto dai critici della sinistra democratica, che non hanno fatto mistero, diciamo, non viene diciamo avanzata esplicitamente dai leader principali del Partito Democratico, ma gli esponenti della sinistra l'hanno detto apertamente, hanno sollevato lo spettro del cosiddetto wag the dog, no? Insomma, del lancio di un'operazione militare per distrarre dai problemi politici, impeachment e altro, e anche per dare dimostrazioni così di forte e di decisionismo, un decisionismo che potrebbe, accusano appunto i critici della sinistra democratica, che potrebbe appunto essere utilizzato da Trump in campagna elettorale, ma non solo da Trump, anche da alcuni dei suoi più stretti consiglieri falchi, Mike Pompeo, che pare sia stato uno dei grandi sostenitori dell'attacco militare, sta considerando una corsa al Senato nell'anno prossimo. diciamo, di lasciare il Dipartimento di Stato e correre al Senato. Diciamo così, arrivare a una corsa al Senato dimostrando forza, dimostrando che potrebbe, magari nel calcolo qualcuno, appunto, qualcuno nella sinistra democratica sostiene, magari potrebbe anche rappresentare un cinico calcolo in qualche modo che possa aiutare la campagna di appunto repubblicani ultraconservatori e falchi, diciamo, poi nel presentarsi alla propria base, a scapito però appunto dei rischi per la sicurezza nazionale. Chiaro. Anche perché Marco, scusami, per chiudere, leggevo che su Google crescono le ricerche sull'età minima del reclutamento negli Stati Uniti, cioè i giovani americani, anche se mi pare che non ci sia più neanche lì la leva obbligatoria, però sono preoccupati magari per un richiamo. No, sicuramente c'è un clima, perché è comunque, cioè, è la prima volta che gli Stati Uniti ammazzano un personaggio di rango di un governo straniero dalla seconda guerra mondiale. Il precedente caso è l'ammiraglio Yamamoto giapponese dopo Pearl Harbor. Quindi, diciamo, la dimensione storica non sfugge, credo, a nessuno. La potenziale dimensione storica di quello che è avvenuto e di quello che potrebbe avvenire. E questo si traduce anche in una paura diffusa. Il sito del cosiddetto Selective Service, che è il sito governativo dove i giovani americani devono registrarsi per forza per avere poi accesso a lavori federali o anche per avere accesso a prestiti studenteschi pubblici, ti registra automaticamente, così che se in caso ritorna la leva, questo è il registro da cui viene schedato, tra virgolette. Allora, quel sito ieri nell'ultima ora è stato travolto da richieste di informazioni e ha avuto un crash pazzesco, proprio, diciamo, come sintomo di quella che è stata una reazione, diciamo, di paura, di incertezza di fronte a una politica estera che comunque sia appare un po' svenuta, irrazionale e avventata. Chiaro. Marco, chiudo con questo messaggio di Enzo D'Arvenna, che dice: gli americani hanno votato un presidente con poca esperienza di politica estera. Trump ha basato la sua presidenza, dice, cancellando le cose fatte da Obama. Per esempio, mi viene in mente appunto l'accordo sul nucleare con l'Iran, e dice: l'uccisione di Osama Bin Laden ha dato tanto lustro a Obama. Trump potrebbe aver giocato una carta simile, anche se questo generale, probabilmente la gran parte delle persone, dell'opinione pubblica dei vari paesi, non ne sapevano niente, non lo conoscevano, grazie, nonostante la sua potenza. Grazie a Marco Valsani dagli Stati Uniti. Intanto, alla prossima mossa. Allora. Grazie a voi. Ciao Marco. Qui ci fermiamo brevemente, lo sapete, breve pausa di riflessione, di respiro. Voi continuate con i vostri messaggi, i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, avete ripreso a essere nel posto giusto, nel momento giusto, con voi, se volete, la giusta conduttrice Roberta Giordano, in modo che ogni sera, come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, avete questo quadro chiaro, esauriente, più possibile esauriente, della giornata che si sta chiudendo, con i fatti principali e gli approfondimenti insieme agli ospiti. Per i vostri commenti e le vostre riflessioni, sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Henry da Torino, evidentemente, diciamo così, turbato da tutta questa escalation, dicevo, che purtroppo è la parola chiave, sembra, di questo nuovo inizio anno, dice: Roby, ovviamente, bentornata, dice, se scoppia la terza guerra mondiale, voi di Radio 24 andrete lo stesso in onda, avete un bunker ben microfonato, e quello ci possiamo attrezzare, ma ovviamente speriamo che non sia mai necessario, ecco, se si evitano le prove di forza, le prove muscolari, no, per chissà quali motivi, appunto, per capire effettivamente quale sia la politica, per esempio, ci diceva il nostro corrispondente degli Stati Uniti, di Trump in questo momento, e qual è la possibile altra mossa, se davvero poi l'Iran dovesse alle minacce poi far seguire le azioni. Ma ci spostiamo intanto su un altro scenario molto critico dal punto di vista internazionale, che è quello libico. Anche qui l'escalation partita ulteriormente da una situazione già estremamente caotica, già molto tesa, dalla bomba all'Accademia Militare che ha fatto strage di cadetti in Libia. L'inviato speciale dell'ONU, Ghassan Salameh, ha detto: la situazione in Libia è particolarmente difficile in questo momento, confesso che è desolante. Allora, su questo coinvolgo immediatamente Arturo Varvelli, che è direttore dell'ufficio di Roma dello European Council on Foreign Relations e grande esperto, uno dei massimi esperti di Libia, che saluto. Buonasera Varvelli. Buonasera a voi. Quindi l'inviato speciale dell'ONU, Salamè, dice la situazione è davvero desolante e quindi cerchiamo di capire a che punto è questo caos libico infinito, no? Con la notizia di oggi, tra le altre, con le forze di Haftar, perché sappiamo che ci sono, diciamo, due governi, uno riconosciuto in particolare dall'Occidente, che è quello del premier Sarraj, e l'altro, quello che viene definito l'uomo forte della Cirenaica, Haftar, che pare abbia preso con le sue milizie Sirte, che è una città strategica. Barbelli. Sì, ormai diciamo che la situazione è sfuggita di mano, non è neanche più un conflitto civile, anche, ma ha solo dei connotati, io direi quasi secondari, di conflitto civile, perché tutto sommato i libici combattono tra di loro, sono numericamente poco rilevanti. C'è un fronte alle porte di Tripoli che coinvolge 1.000 uomini contro 1.000 uomini, ma in realtà il coinvolgimento è quello delle potenze regionali e delle potenze internazionali che si sono in qualche maniera coalizzate attorno a questi due embrioni di governi e contendenti. C'è un governo delle Nazioni Unite, come è stato detto correttamente, che risiede a Tripoli e che è rappresentato da Fayez Sarraj, che è sostanzialmente una sorta di federatore delle varie anime che compongono le forze politiche e militari della Tripolitania, cioè l'area estesa e molto densamente abitata vicino a Tripoli. E dall'altra parte c'è questo generale Haftar, che ha avuto progressivamente nel corso del tempo il supporto internazionale da parte degli Emirati Arabi Uniti, da parte dell'Egitto, da parte della Russia, seppur indirettamente, da parte di altre importanti potenze, tra cui anche la Francia in passato. E il governo di unità nazionale invece a Tripoli è stato un po' abbandonato a se stesso, è stato abbandonato a se stesso e ha trovato come importante protettore, io direi unico disposto a un coinvolgimento militare, la Turchia di Erdogan, che sta inviando dei rinforzi anche dal punto di vista militare per riequilibrare un po' le forze in campo. E ciò che preoccupa è che questo diciamo conflitto ormai è scivolato nelle mani di altri, difficilmente controllabile da parte delle potenze europee, pur essendo la Libia, bisogna ricordarlo, un po' il nostro giardino di casa. Chiaramente, Barbelli, anche se il presidente del Consiglio italiano Conte prova comunque a ritagliare, no, un ruolo che abbia un qualche peso per l'Italia, sta cercando un asse con la cancelliera tedesca Merkel, no, parla anche della necessità di una strategia dell'Unione Europea, di una soluzione diplomatica. In questo momento, quindi, quanto effettivamente l'Italia può incidere in questa situazione, nella soluzione? Vorrei non essere tranchant, ma direi zero. Direi zero perché la partita che l'Europa e l'Italia gioca è una partita diversa. Non c'è un coinvolgimento militare di alcun tipo. Quando abbiamo potuto, come dire, supportare non a parole ma nei fatti il governo di unità nazionale, l'abbiamo fatto troppo debolmente. Non abbiamo fatto sostanzialmente nulla da quando il 4 aprile scorso il generale Haftar diciamo, risolvendo ogni questione politica e diplomatica, si è sostanzialmente trasformato in un attore militare al 100%, tentando di entrare a Tripoli con una manovra piuttosto azzardata, tant'è che non gli è andata bene ed è sostanzialmente ancora su quelle posizioni, nonostante abbia preso Sirte, una città non del tutto priva di rilevanza strategica, ma sostanzialmente ancora non è riuscito a entrare nella capitale. E noi sostanzialmente non abbiamo mosso dito, anzi, quando il generale Haftar ha bombardato l'aeroporto di Misurata, nel quale risiedono 300 nostri militari, sostanzialmente nessuno all'interno del governo, né di quello passato né di quello attuale, ha alzato voce contro il generale Haftar. Avremmo dovuto intervenire militarmente in modo concreto? No, io non penso che avremmo dovuto intervenire militarmente per forza, però avremmo dovuto tenere una posizione molto più netta e molto più a favore del governo di unità nazionale, che non vuol dire supportare Sarraj e le milizie, vuol dire anche essere critici o chiedere dei cambiamenti di quel governo, però supportare un metodo che era quello, il tentativo di Ghassan Salamè, sostanzialmente di portare avanti il governo di unità nazionale, e soprattutto cercare in qualche maniera di isolare Haftar anziché in qualche maniera di favorirlo come è stato fatto, solo che eravamo preoccupati che Haftar potesse conquistare tutta la Libia e farsene un sol boccone e noi ci saremmo trovati con un attore a noi estraneo e nemico. Però non è così, non funziona così la politica internazionale. Anzi, se avessimo supportato più decisamente il governo di unità nazionale, ora ci troveremmo nelle condizioni di poter parlare direttamente ad Haftar e offrire qualcosa. In questo momento invece non abbiamo carte alla mano, perché Haftar avrebbe dovuto abbandonare i suoi protettori che gli forniscono contributi finanziari e armi per essere più amico dell'Italia? Non si capisce. E in realtà, facendo così, però tenendo una posizione troppo ambigua, abbiamo finito per perdere qualsiasi leva sul governo di Tripoli che si è rivolto ai turchi. Perché ho visto che Conte ha ribadito la posizione di ferma equidistanza, no? Quindi non scontentare uno, non scontentare l'altro. Mi sembra che questa posizione di equidistanza strategica non sia affatto produttiva. Lo dimostra l'isolamento dell'Europa in generale, dell'Italia in particolare, su questa partita. È chiaro, si rischia di restare tagliati fuori, insomma, da Turchia da una parte, già, ma anche dalla Francia in Europa. Per esempio. Lo siamo già tagliati fuori sostanzialmente. Sì. Una volta che sono entrati militari in qualche maniera di altri paesi, la questione si è spostata dal piano politico dal piano militare. Noi non vogliamo nessun coinvolgimento, e questo può anche stare nelle corde dell'Italia di non avere un coinvolgimento militare, anche se bisogna pensare che lo strumento militare almeno come fattore di deterrenza sta diventando sempre di più un'arma politica e anche necessaria talvolta, e questo deve essere un ragionamento che coinvolge non solamente l'Italia ma tutta l'Europa, che è un attore economico straordinario con ancora delle grandi potenzialità in tutta la sponda sud del Mediterraneo, è un attore politico importante ma non è un attore militare. Quindi quando il discorso si sposta su altri livelli, praticamente l'Europa e l'Italia non tocca parte. Niente, è chiaro. Grazie mille Arturo Varvelli. Grazie. Ricordo, direttore dell'ufficio di Roma dello European Council on Foreign Relations. Adesso c'è la viabilità e poi parliamo invece di un'altra escalation, visto che il termine è ricorrente, quella delle violenze, delle aggressioni nei confronti del personale medico. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi e sempre per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, numero per SMS e WhatsApp. Dagli scenari internazionali, da queste crisi geopolitiche, adesso ci concentriamo invece su un altro tipo di spirale, di escalation, quella delle violenze e delle aggressioni nei confronti del personale sanitario, medico. Negli ultimi giorni sono verificati nuovi casi, in particolare a Napoli. Nei giorni scorsi una dottoressa del 118 è stata strattonata da uno squilibrato, in un'ambulanza sono stati scoppiati dei petardi e ieri, sempre a Napoli, come era già successo altre volte nei mesi scorsi, è stata sequestrata con tutto il personale a bordo un'ambulanza da parte di un gruppo di ragazzi, un'ambulanza dell'ospedale Loreto Mare, per costringere gli operatori a soccorrere un sedicenne al quale era capitata una distorsione al ginocchio. Allora, il direttore centrale della centrale operativa del 118 di Napoli, Giuseppe Galano, parla di fenomeni, dice, ormai un fenomeno ormai endemico delle aggressioni del personale medico che va analizzato, dice, in maniera profonda, ed è intervenuto naturalmente su questo fenomeno anche l'Ordine Nazionale dei Medici, più precisamente il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Nelli, che saluto. Buonasera Nelli. Buonasera a voi. Lei ha fatto una richiesta forte, no? Oggi nelle sue dichiarazioni ha chiesto che ci siano rappresentanti delle forze dell'ordine nei pronto soccorso e dei vigilantes sulle ambulanze. Sì, in realtà già questa ipotesi era stata formulata da alcuni partiti all'interno durante la discussione sul disegno di legge sulla violenza, che come dire, non è andata più avanti questa proposta per mancanza di fondi. Ma oggi credo che l'emergenza che viviamo, soprattutto in alcune realtà, non può che portarci a chiedere allo Stato un intervento forte, al governo un intervento che sia realmente efficace. La presenza dei punti di pubblica sicurezza all'interno degli ospedali e soprattutto nei pronto soccorsi con alta affluenza credo che sia oramai indispensabile. per tutelare anche gli operatori sanitari, oltre che i cittadini stessi. E nella situazione napoletana credo che sulle ambulanze il primo provvedimento previsto dal ministro Lamorgese, che è quello di installare delle telecamere, sia, come dire, importante ma assolutamente insufficiente, perché siamo all'indomani di una stagione di tagli dove una serie di prestazioni non sono state più garantite come dovrebbero, e da parte dei cittadini si è rotto quel rapporto di fiducia, di collaborazione con i professionisti sanitari, e oggi ognuno pensa di poter provvedere direttamente, di alzare la voce, talvolta minacciare, addirittura aggredire, per ottenere un diritto. Anelli, lei infatti citava appunto la ministra dell'Interno Lamorgese, che oggi ha annunciato, dopo tutti questi episodi, di voler mettere entro metà gennaio, mi sembra, appunto, le telecamere sulle ambulanze. Ha intervenuto anche il ministro della Salute Speranza, Roberto Speranza, che ha chiesto una legge che inasprisca le pene per lesione al personale sanitario. Dice: se non dovesse essere approvata in via definitiva in tempi brevi, provvederò con un decreto. Però ha anche detto che non è sufficiente tutto questo, quello di inasprire le pene, di mettere i vigilantes, perché dice, al di là appunto del problema delle coperture economiche, poi dice bisogna avviare una battaglia culturale per far comprendere a fondo l'importanza di questi professionisti per la società. Ha detto, in primo luogo, chiudendo, come diceva lei probabilmente, Anelli, la stagione dei tagli del finanziamento al servizio sanitario che va avanti da anni. Dice: non voglio giustificare le violenze, ci mancherebbe, no? Dice: però è lampante che dove i servizi sono meno efficaci ci sono più facilmente situazioni di disagio, appunto nel mezzogiorno, e nel disagio le reazioni sono purtroppo incontrollabili, ha detto Speranza. Che ne pensa? Beh, credo che l'analisi sia assolutamente condivisibile. D'altra parte credo che il ministro abbia invertito questo processo investendo quest'anno 2 miliardi nel Servizio Sanitario Nazionale, e quindi diciamo d'altra parte anche l'impegno del Presidente del Consiglio Conte di, nel giro di questi 3 anni, di portare a più 10 miliardi il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, credo possa considerarsi una vera e propria svolta. Però le conseguenze sono oggi, in questo momento, e quindi bisogna intervenire. Io incontrerò il ministro Speranza fra qualche giorno, gli chiederò di riconvocare l'osservatorio per la violenza nei confronti degli operatori, perché i problemi strutturali ci sono. La proposta di presentare un decreto legge l'avevamo già ipotizzata noi con il ministro Grillo, e siamo naturalmente in una situazione diversa. Il Parlamento ha già, in una delle due Camere, approvato all'unanimità il disegno di legge che inasprisce le pene. Sì. Quindi siamo alla vigilia, al Senato, di poter portare in porto in tempi brevi questo provvedimento. Lì dove non fosse così, io credo che il ministro dovrebbe adottare il provvedimento del decreto. Però rimangono le situazioni molto critiche, come quella di Napoli, su cui bisognerà trovare e dare una soluzione. Io credo che le telecamere non siano sufficienti, questa è la mia impressione, sebbene sia un provvedimento assolutamente utile, però non sufficiente a garantire la sicurezza degli operatori. La ringrazio intanto Filippo Anelli, lo ricordo che è presidente della Federazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Speriamo che però già questo primo passo con la ministra Lamorgese, lei parlava anche dei finanziamenti, del così cambio di rotta col ministro della Sanità Speranza, possano essere dei passi importanti per poi proseguire al meglio, insomma, e contrastare davvero questo fenomeno vergognoso. Grazie Anelli, grazie molte. Grazie a voi. E buon anno. E buon anno intanto. Oh, intanto mi ha subito raggiunta Dario Ricci, che lo vedo incollato. Restiamo a Napoli, no? Restiamo a Napoli, come? Certo. Però Napoli, parliamo di calcio. La partita. Vedo che il Napoli però un gol l'ha fatto adesso. Sì, sì, sì, siamo al 50° di gioco. Inter in vantaggio per 2-1 al San Paolo sul Napoli. Finora tutte nel primo tempo. Le reti al 14° Lukaku porta in vantaggio appunto i nerazzurri, approfittando di uno scivolone di Di Lorenzo, che lo lancia verso la porta di Meret. Il raddoppio arriva al 3 32esimo, ancora protagonista Lukaku, ma ancora un errore dei difensori partenopei, in questo caso del portiere Meret, che non riesce a deviare né a trattenere la conclusione pur forte dell'attaccante belga. Napoli, che però reagisce, al 38esimo trova la rete con Milik, bravo a insaccare sotto misura su assist di Callejon. Quindi partita ancora aperta, però vantaggio finora meritato dell'Inter per 2-1, cara Roberta. Oh, intanto, mentre prima ti ho dato ben altre notizie, adesso invece c'è questo aggiornamento importante. Parlavamo delle crisi internazionali, Dario, sia in Iraq, con l'Iran e Stati Uniti, e in Libia. I vertici militari americani in Iraq hanno informato la loro controparte irachena che le truppe statunitensi stanno iniziando i preparativi per lasciare il paese, per lasciare l'Iraq, proprio come tra l'altro da voto ieri del Parlamento. Sì, anche se dicevamo che non era vincolante, però evidentemente Trump, diciamo, ha colto un po' la palla al balzo. Sappiamo che lui è sempre stato piuttosto contrario alle missioni internazionali, anche se poi con questa uccisione del generale iraniano, boh, bisogna vedere quali sono i prossimi passi. Caro Dario Ricci, se non hai altro da aggiungere, qui ti saluto. Ma sì, dai, salutiamoci, vi rimando invece alle edizioni serali per i risultati finali e tutti gli aggiornamenti. Naturalmente. Grazie Dario Ricci, e adesso vi lascio brevemente per ritornare in Rata con la Folgore alle 22.